contavo gli istanti all'ultima ora, sentivo gli altri da dentro parlare di là. Avevi appena finito la scuola, mi aspettavi nel centro città. E il tempo non passa, non sei qua, sei lontana, sembra brutto. La clessidra conta, la sabbia è un secondo conta tutto. Sognavo i tuoi sguardi e una campana suona. Dai tempo al tempo e mi distruggerà. Già ti pensavo su viale da sola, sotto un cartello di pubblicità. E il tempo passa e più sarà difficile fare tutto. Non sentirò l'aria, solo la tua voce che tutto calmerà. Quando arriverà rinascerà tutto sopra un deserto.